Pronto? Pronto Virginio, buonasera, come stai? Ciao, bene, bene. Senti, ti farò qualche domanda, mi fa molto piacere conoscerti. Sì, guarda, ti dico, è un'avventura perché abbiamo tante persone che ci visitano, che fanno i commenti, quindi per noi è anche molto bello poter avere la vostra disponibilità per le interviste. Senti, io ti farò qualche piccola domanda. Tu sei giovanissimo, ti affacci su questo palcoscenico importantissimo che è quello dell'Ariston di Sanremo. Hai 21 anni e canterai una canzone che si intitola Davvero. Davvero, Raccontaci in un minuto, in grosso modo, chi è Virginio? Un incontro del tutto casuale, quindi. Casualissimo, sì. E parlando appunto, è uscito il discorso che lui appunto si occupava di musica e abbiamo cominciato a. Io gli ho di sgamo, diciamo, come si dice, ho presentato una demo e abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi. Lui mi ha chiamato la stessa sera, era entusiasta, io sono rimasto molto contento e quindi abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi. E successivamente mi ha presentato il mio attuale produttore e manager che è Ivo Grasso della Massive Arts e abbiamo proprio iniziato a lavorare, diciamo, It's seriamente, 17 hours. ufficialmente sull'album, ecco. Bene. E poi abbiamo avuto l'incontro con la Universal, insomma, che si è appassionata al progetto e E da lì la quindi. presentazione del progetto a Sanremo, immagino. Senti, Esatto. io ti faccio un'altra domanda. Che cosa ti piacerebbe si dicesse di te subito dopo la tua esibizione di questa sera all'Ariston? Che faccio bella musica, assolutamente sì, guarda, non, sì, vorrei che restasse impresso questo, o perlomeno che sia sincera, capito? Bene. Come musica, come mondo artistico, diciamo, chiamiamolo così. Quindi la tua autenticità, diciamo così, come artista. Senti, Esatto, in un certo senso sì. la tua canzone che abbiamo detto si intitola Davvero, è una delle poche che non parlano d'amore in senso tradizionale. Di che cosa parla la tua canzone? Allora, è un amore un po' diverso. Parla del rapporto padre-figlio, praticamente. L'ho scritta molto tempo fa, quindi è completamente scollegata dal discorso Sanremo. E nasce, diciamo, come un voler. Davvero è una ruspa che vuole distruggere il muro, magari non so, delle incomprensioni, dei silenzi, spesso, soprattutto nei rapporti con i propri genitori. È un non volersi dire le cose, non volersi confessare, non volersi capire soprattutto, che poi genera questa rabbia latente che mi ha in un certo senso un giorno portato a stancarmi e quindi a voler richiamare l'attenzione in questo caso di mio padre, in un certo Certo. senso. Sai, già il discorso padri-figli non è mai semplice, proprio per il fatto che si è padri e figli e che quindi ci sono gli anni, no? Le esperienze diverse e poi la mancanza d'esperienza del figlio non fa sì che il padre riesca a far capire determinate cose. Questo, infatti, l'argomento è molto interessante, quindi il fatto che comunque presenti questo argomento impegnato, chiamiamolo così. Andare sul palco dell'Ariston volevo farlo con qualcosa che significasse molto per me. Bene. Di conseguenza ho scelto davvero. Questa ti rappresenta, diciamo, meglio di altre. Sì, comunque è stata significativa e lo è ancora adesso. Poi adesso comunque le canzoni in generale sono le fotografie di un momento, no? Certo. E quindi le cose adesso sono cambiate, è molto diverso il rapporto con mio padre. È migliorato, speriamo, sì. Anche grazie alla canzone. Cosa dice tuo padre che questa sera canti a Sanremo? Riguardo il discorso musica, più che altro riguardo il discorso discografia, ecco, perché poi come non è un luogo comune che sia un ambiente un po' difficile, insomma, Certo. e di conseguenza era un po' schivo, ecco, diciamo. Forse ti voleva proteggere da eventuali Ma sì, poi delusioni. sono le solite cose che si capiscono dopo, Certo. e quindi no, però lui è stato veramente contento perché ha capito in un certo senso che stavo facendo sul serio, perché le cose fatte a metà poi non ti portano da nessuna parte. Certo. E quindi E è quindi adesso è contento e questo ci sembra una contento. Sono bella tutti cosa. contenti. Senti Virginio, sei emozionato? Qual è la abbastanza. tua Sono più ansioso più che altro. la tua più grande paura e il più grande desiderio legati a questa partecipazione al festival? La mia più grande paura è che, siccome in Liguria c'è troppo vento, allora ho sempre il timore, ecco, incappottato. Questa è la mia più grande paura adesso. Di beccarti il raffreddore, praticamente. Esatto. No, a parte scherzi, vorrei. Cioè, ho il timore che magari un concetto come questo non possa essere accolto appieno, comunque compreso appieno, ma spero che il testo sia abbastanza immediato e quindi, cioè, appunto spero di essere, tra virgolette, accolto, ecco, in un certo È quello che ti auguriamo anche noi, ti facciamo un in senso. bocca al lupo enorme per questa serata che ti aspetta una grande emozione. Noi saremo con te, ti seguiremo, faremo il tifo Dire e merda, ve l'ho di detto. merda, lo puoi dire, certo che lo puoi dire, lo devi dire. Virginio, ti chiedo una piccola cortesia in chiusura di questa simpatica conversazione. Se puoi fare un piccolo saluto agli amici di Festival Blogosfere. Grazie Virginio, siamo tutti con te e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao.